Bene, buonasera a tutti. Mi ha interessato molto il titolo che avete dato a questa serata, che per chi non se lo ricordasse, il titolo è Il colore dei soldi. E mi ha incuriosito e volevo questa sera fare un po' di riflessioni con voi, prendendo dentro quello che Marco diceva, quindi sia la crisi, sia la finanza etica, però giocando un po' su questo titolo. Provate a immaginare, così quasi come se fosse una fiaba, che fra un centinaio di anni qualcuno per caso trovasse un baule, un forziere pieno appunto di soldi. E sarebbe interessante chiedere se i soldi avessero parola, chiedere a loro, ai soldi, come è stata un po' tutta questa vicenda, chiedere a loro come mai è nata questa crisi che stiamo vivendo e chiedere anche a loro se hanno dei colori. E quindi mi divertirò un po' su queste cose, divertirò nel senso per rendere anche il mio discorrere con voi più leggero, sebbene i temi sono temi a volte che sembrano ostici. Io credo che questi soldi, se fossero interpellati, di questa crisi potrebbero dire alcune cose precise. Loro che l'hanno vissuta la crisi, vi ricordo che i soldi girano il mondo, passano di mano in mano. La prima cosa che ci direbbero su questa crisi è che una delle cause a cui io credo fortemente, al di là di quello che i giornali hanno detto e dicono, è che noi veniamo da 30 anni di neoliberismo economico. Insomma, aspettiamo che si siedano, se non poi... Dicevo, una delle cause sono questi 30 anni di neoliberismo. È un neoliberismo economico che ha portato ad una situazione nella quale ogni giorno ci sono transazioni per 3.000 miliardi di dollari. Ogni giorno. Capite la montagna e i volumi di soldi che girano nel mondo. Tenete presente che il commercio reale invece, cioè lo scambio di soldi per commercio reale, sono 10.000 miliardi ma all'anno. Ed è un'assurdità. Significa che c'è tutta una bolle, gonfiature, 3.000 miliardi di euro al giorno. 10.000 all'anno invece sono i miliardi di dollari che transitano nel commercio reale, vivo, quello che fa tenere in alto l'economia, che la fa sviluppare. Questi 30 anni di neoliberismo non è soltanto un fattore economico, vado un po' veloce, poi semmai li riprenderemo. È figlio di un pensiero. Non è che nasce così. C'è dietro un pensiero. Ed è un pensiero che ha in testa un tipo di società, un tipo di convivenza. E questo tipo di società e convivenza è quella che con molta, credo, chiarezza è emerso negli ultimi anni soprattutto, una condizione e una società dove alcuni possono vivere in un certo modo, alcuni possono essere ricchi, e molti sono i poveri. Una seconda questione di questa crisi, questi soldi ci direbbero con molta chiarezza, che hanno visto che in questi anni, nei luoghi dove si trattano i soldi, non proprio i soldi, ma comunque i titoli, cioè nelle borse, c'è stato un lievitare dei volumi. Voi pensate che dal 1980 al 2005 sono passati dalla circa, i volumi che passano nelle borse, dal 109% al 316% del valore della produzione mondiale, tre volte tante. Questo ha significato che l'economia si è un po' spostata e ha abbracciato forse con troppa veemenza gli aspetti finanziari. Vi faccio un esempio per capire. Molte delle crisi, proprio l'altro giorno è venuto a trovarmi il segretario dei metalmeccanici italiani, il quale mi ha chiesto di aiutarlo in una ricerca, perché lui ha con chiarezza davanti il tema che le crisi di molte fabbriche non sono determinate dal fatto che sono decotte, ma perché hanno fatto a volte delle operazioni scellerate nella finanza, forse senza neanche avere le competenze, o forse avendole e comunque non essere riusciti poi dopo ad avere dei profitti. Quindi questo processo di finanziarizzazione dell'economia è l'altro elemento. Il terzo, forse quello più importante, il terzo è che noi abbiamo vissuto per troppo tempo al di sopra di quelle che sono le nostre possibilità. Questo ha causato un processo di indebitamento sia dei singoli, delle famiglie, e andiamo avanti. Questo processo di indebitamento a un certo punto è esploso, e come dice mio amico Angelo, che è qui, che è molto più esperto di me ed è un trader, lui dice che questa situazione è appena iniziata, è una cosa che poi si protrarrà nel tempo. Tutto questo castello di carte che sono state create stanno venendo giù, e questa è una riflessione, secondo me, che dobbiamo tenere presente con molta molta chiarezza. Ora, ci hanno detto i mutui sul prime, ma non è il problema, perché quei mutui lì nel Nord America sono stati fatti con un meccanismo che era, ve lo semplifico, mutui prestati della gente che non aveva la possibilità di rendere. Ma come hanno fatto? Hanno cominciato a dirgli: però tu all'inizio paghi una rata piccolina, quindi la sostieni, poi non preoccuparti che comunque il processo, comunque la crescita, i soldi li avrai nel tempo, e anche quando crescerà questa rata tu la pagherai. E non è avvenuto così, perché la gente si è indebitata e a un certo punto non ha potuto più ripagare. Ma non è stato quello, sono gli altri elementi che vi sto dicendo che hanno creato la crisi. Non so se è chiaro il passaggio. Una quarta questione forte è che nel mondo della finanza vi è una regolamentazione insufficiente, e ci torno anche dopo. Non ci sono regole, o sono pochissime le regole. E noi sappiamo tutti che laddove non ci sono regole, chi vince è il più forte. Qualcosa sta venendo avanti adesso, speriamo. Un ultimo, e chiudo questa prima serie di motivazioni sulla crisi. L'altro elemento, secondo me importante, che sta molto a cuore, sono gli squilibri internazionali. Noi abbiamo un sistema dove, per poter sopravvivere, deve avere per forza qualcuno che paga per altri. Nel mondo ci devono essere territori, continenti, che devono essere al servizio di altri. Ora, una delle, probabilmente, delle motivazioni che vengono avanti è che molti di questi paesi oggi sono un po' fortini, no? Sono già un po' più forti. E probabilmente il sistema si sposta anche. E quello che io da un po' di anni sto dicendo, non è detto che le nuove povertà e i nuovi paesi poveri non siano quelli che da sempre si sono ritenuti ricchi. Voi immaginate che questo squilibrio economico ha voluto dire, per esempio, per darvi un dato, per sfatare tanti di quei luoghi comuni che spesso si dicono, dal 2002 al 2006 i flussi finanziari dal nord al cosiddetto sud del mondo, cioè i soldi che noi mandiamo nel sud per gli aiuti e tutto questo, era di 857 miliardi di dollari. Ma dal sud verso il nord, nel medesimo periodo, sono stati di 1.205 miliardi di dollari. E non è che noi aiutiamo il sud. E questo ritorno è dato dal fatto che la commercializzazione, il commercio essendo centrato perché qui ci sono i soldi, è una serie di esportazioni che fanno tutti questi paesi e li portano qui, ed è un impoverimento per loro. Quindi questi elementi, questi sono i veri elementi, che però non è sicuramente il tema di oggi, sarebbe da approfondire, semmai ne discutiamo dopo. E poi, se qualcuno fra 100 anni troverà questi soldi, probabilmente, se l'ho vista dentro in questo forziere e ne tira fuori qualcuno, può darsi che qualche colore questi soldi lo hanno assunto nel tempo. C'è un mazzetto di soldi che si può trovare in quel forziere lì e sono di colore grigio. Nel tempo hanno assunto una colorazione grigia. E se dovessero parlare, questi soldi vi racconterebbero di luoghi molti, molto belli che si trovano in questo mondo. Vi racconterebbero di molte isole. Vi racconterebbero che sono stati in mano a delle persone che non avevano tanti scrupoli. In particolare, mi riferisco a uno dei fenomeni che non si riesce assolutamente a governare e a regolamentare, che va sotto il nome dei paradisi fiscali. Cos'è un paradiso fiscale? È un territorio, in genere una nazione piccola. Cosa avviene? Primo, il segreto bancario in quei paesi lì è molto spinto, quindi sai ben poco di quello che avviene. Secondo, non ti danno informazioni, non sono trasparenti e vige una segretezza in tutte le operazioni che avvengono. Terzo, in quei paesi in genere vi è una tassazione bassissima o addirittura nulla per coloro che, e per gli enti giuridici, cioè le imprese, che arrivano dall'estero, e per quelli che non sono e che sono residenti, o quelli che sono residenti in questi paesi. Questi sono i paradisi fiscali. E vi dicevo che questo colore è grigio perché il settore dell'ONU che si interessa di criminalità finanziaria, che si chiama GAFI, ogni anno pubblica una lista grigia. A dire il vero, le liste sono tante. La prima è nera, che però sono pochissimi paesi. La seconda è quella grigia. E pubblica questa lista, e sono i paradisi fiscali, nei quali possono avvenire le operazioni che vi stavo dicendo prima. Questi paesi sono Andorra, Anguilla, Antigua, Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, Isole Vergini Inglesi, Isole Cayman, Isola Cook, Dominica, Gibilterra, Grenada, Liberia, ne salto qualcuno, San Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Isole Turche, Caicos, Vanuatu. Questi a volte sono dei paesi dove, non sto attrezzando una battuta, forse anche esagero, dove a volte ci sono più finanziari e banche che abitanti. E molti di questi sono delle isolette, per quello che quei soldi lì ci avrebbero parlato e ci avrebbero detto che hanno visto posti belli. Ovvio che uso queste metafore, ma rendo l'idea della cosa. E Ci sono due fatti che ho avuto sotto mano e che vi faranno ridere. Il primo è che è successo che un americano ha iniziato circa 20 anni fa a vendere del terreno lunare, la Luna. Questo ha fatto fede sul fatto che ha rivendicato la proprietà di pezzi della Luna, e siccome è andato nel Nord America a chiedere una autorizzazione ad avere questa proprietà per la legislazione nordamericana, non mi ricordo più con esattezza lo Stato, non avendo avuto nessuna risposta, ha potuto operare e ha cominciato a vendere. Perché il terreno lunare è stato vietato come proprietà alle persone giuridiche e agli stati, però non avevano pensato che anche una persona fisica poteva fare questa roba. E questo ha cominciato a venderlo. Ciò che stava dietro, dopo una ricerca che è stata fatta, è che in prospettiva questo personaggio, poi probabilmente non avverrà mai, pensa di poter creare i cosiddetti paradisi fiscali sulla Luna. E non è una battuta questa. L'altro invece, che è ancora più comico e che negli ultimi incontri ho citato spesso, è che il presidente dell'organizzazione dei paradisi fiscali ha chiesto all'ONU l'autorizzazione per creare un nuovo stato che si chiama Antarctic Land. È uno stato nell'Antartide, solo ghiaccio, meno 24 è la media dei gradi, non c'è nessun abitante, grande come mezza Europa, e questo, che si chiama Giovanni Caporaso, che era tornato 6 mesi fa a Lugano, coloro che erano interessati a capire i meccanismi dei paradisi fiscali, ha chiesto all'ONU di fondare questo Stato. Questo Stato ha una capitale che si chiama Capo Cod. Lo fa perché lui discende da alcuni tedeschi che ai tempi, nel 1800, erano andati nell'Antartide. In effetti lo chiama questo, lo chiamavano il cavaliere di ghiaccio, e lui per discendenza ha chiesto all'ONU l'autorizzazione di avere questo nuovo Stato. Pensate, questo Stato c'è i ministri, ha anche un reggente che è un'altra persona. Lui si fa chiamare Sua Altezza Giovanni Caporaso, e vai a guardare per esempio a caso nel Ministero delle Finanze, lì viene dichiarato con esattezza che Antarctic Land è un'area no tax, paradiso fiscale. Se poi scaviamo e entriamo ancora dentro in questo forziere, ci sono dei soldi che troverete sicuramente bianchi, di colore bianco. Colore bianco perché loro hanno subito un processo che non tutte le banconote e i soldi hanno avuto. Sono stati lavati e sono diventati più bianchi. E mi riferisco al grande fenomeno che accompagna ancora questa crisi, e che da troppo tempo imperversa, anzi aumenta soprattutto nel nostro paese, che va sotto il nome di riciclaggio. Il denaro lavato, il denaro che dalla illegalità passa alla legalità, è il denaro che arriva da miriadi di traffici sporchi. Su questo la cosa che sicuramente fa riflettere è che in Italia si ricicla il 3,7% del riciclaggio globale nel mondo. Le stime, perché qui si parla naturalmente di stime, sono circa 55.500 milioni di dollari. E ahimè, l'Italia è la quarta lavanderia nel mondo. È il quarto paese nel mondo per riciclaggio. La spiritosaggine del termine lavaggio, l'ho ricordato anche altre volte, è nato perché un gentiluomo, che si chiamava Al Capone, scherzo naturalmente, aveva una serie di lavanderie e attraverso queste lavanderie riciclava il denaro che non gli arrivava tanto dall'attività della lavanderia, ma gli arrivava da altro e la faceva filtrare dentro lì. Da lì nacque poi dopo questa diceria, questo modo di parlare e di indicare il riciclaggio come un lavaggio del denaro. Come si fa a riciclare? Vado un po' veloce, sono tante le forme che si utilizzano. Una è il contrabbando di valuta, una è il gioco d'azzardo e il casinò. E proprio l'altro giorno mi è arrivato, tra l'altro, un rapporto dell'aumento, adesso non ho qui dati, dell'aumento vertiginoso del gioco d'azzardo da parte delle persone, dettato anche dal miraggio di poter guadagnare velocemente tanto. L'Italia, dicevo, è al quarto posto, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, seguono le isole Cayman, la Russia, l'Italia. Poi la Cina, Romania, Canada, all'ottavo posto c'è Città del Vaticano, nono Lussemburgo, decimo Francia e via. Il tema del riciclaggio è quello che poi accompagna ed è vicino a tutti i processi che oggi vanno sotto il nome di evasione fiscale, che però non ne parliamo oggi. Ma vi è chiaro come tutto ciò che passa nel cosiddetto nero, nel cosiddetta, naturalmente l'evasione fiscale è la conseguenza di quello che è invece un'attività illegale. Chi fa un'attività illegale le tasse non ne paga, in altre parole. Questi soldi qualcuno lo tiriamo fuori dal forziere e qualcuno vedrete che ha un colore nero. E il colore nero? Voi penserete alla finanza nera, certo. Ma io l'ho avvicinato invece, così pensandoci, l'ho avvicinato più al, come dire, al fenomeno della corruzione. Al fenomeno stesso dell'evasione fiscale che accennavo prima, cioè al non dichiarato, a quello che viaggia nel sommerso, quello appunto che corrompe. E anche sulla corruzione questo denaro racconterebbe tante cose. Abbiamo episodi ultimi anche qui in Regione Lombardia, che soprattutto nella dimensione politica, e questo fa arrabbiare, ormai è trasversale. Trasversale intendo che purtroppo sia da una parte che dall'altra o in mezzo questi fenomeni di corruzione ci sono. Probabilmente questo ci dice che il distinguo oggi non è più tanto tra un abbracciare un pensiero, un'ideologia collegata a destra, a sinistra, al centro, ma tra onestà e disonestà. La Corte dei Conti ha detto che il costo della corruzione in Italia è stimabile circa in 60 miliardi di euro. 60 miliardi di euro. Tutte le manovre messe insieme adesso che sono state fatte sono circa 80-85. 60 miliardi di euro. e aumenta. È uscito il rapporto di Transparency International, che è quella che studia queste cose, e i dati che ci ha dato è che l'Italia si trova nel mondo al 69esimo posto, e se dovessimo guardare soltanto l'Europa, quindi le circa le 30 nazioni europee vicino alla, o comunque vicino all'Europa, l'Italia si trova al quart'ultimo posto. Questo per far pensare sulla corruzione. Peggio di noi c'è solo la Romania, la Grecia e la Bulgaria. Tutti gli altri sono un po' meglio di noi. È il denaro nero questo. È il denaro nero perché è un denaro che è sottratto alla collettività e distrugge quella che noi chiamiamo legalità. Se scaviamo poi sempre dentro in questo forziere, troveremo delle banconote con un altro colore. Questo è un colore pesante. Forse esagero nel mio parlare, però cercherò di anche dirvi il perché. Ed è il colore rosso. È sangue macchiato dall'ingiustizia. Scusate, è la banconota macchiata dall'ingiustizia. A volte è macchiata anche di sangue. E avvengono queste cose nel sistema finanziario. Guardate, i prodotti finanziari sicuramente sono nati per finalità positive. E l'utilizzo poi nel tempo di certi prodotti che ha portato addirittura, almeno a me, permette di affermare che alcuni soldi, alcune banconote sono rosse, sono macchiate anche di sangue. Su questo ho ripreso un vecchio studio che ha fatto Mark Chesney. Lui è professore alla Swiss Banking dell'Università di Zurigo ed è presidente del Centro Studi di Riciclaggio e della Corruzione. Lui ha fatto uno studio sui movimenti finanziari che hanno preceduto l'attentato dell'11 settembre 2001, quello delle Twin Towers, quello delle Torri Gemelle. Ebbene, è venuta fuori una cosa interessante che cerco di dirvi in maniera semplice. Voi sapete che quegli attentati esplosero due aerei, e le compagnie aeree erano due. Una era l'American Airlines, l'altra era la United Airlines. L'American Airlines, come tutte le compagnie, le grosse aziende, hanno un capitale e hanno delle azioni che sono quotate in borsa. L'American Airlines, il 10 settembre, prima dell'attentato 2001, un'azione di questa compagnia aerea valeva $29.70. Vi ripeto, $30 facciamo, così capiamo bene. $30. Il 17 settembre, dopo gli attentati, la stessa azione valeva di più o di meno? Valeva di meno, perché uno non prende più l'aereo dopo per un po' di periodo. Gli introiti sono di meno, l'azione crolla. Scende. Il 17 settembre questa azione valeva $18, prima dell'attentato 30, dopo l'attentato $18. Vi è un meccanismo nella finanza e vi è un prodotto finanziario che va sotto il nome di derivati, ma i derivati poi sono anche più complessi, che permette a me, Fabio Silva, oggi di comprare, poniamo appunto l'azione dell'American Airlines, di comprare una opzione, cioè mi riservo la possibilità di comprare una opzione su questo titolo della compagnia aerea che mi permette, dopo un certo tempo, di rivenderlo al medesimo pure prezzo che ha oggi, non il prezzo che sarà quando lo rivendo. Tiro fuori qualcosina e mi riservo questa possibilità. È chiaro questo passaggio? Perché sennò poi non si capisce quello che viene dopo. È chiaro questo passaggio? Un'assicurazione. Cioè, esatto. Cioè io oggi prendo un'azione della Fiat, vale un euro oggi, con 10 centesimi mi riservo la possibilità di vendere ancora ad un euro fra 30 giorni quell'azione lì. Poi fra 30 giorni quell'azione può darsi che valga 0,50, che valga 1,10, che valga 1,03, è chiaro il meccanismo. Però mi riservo questo tipo di possibilità. Ma questa cosa era nata per una cosa corretta, soprattutto per proteggersi dalle oscillazioni, no, di mercato. Voi pensate alle materie prime, no? Al caffè, allo zucchero, ai contadini, no? Uno dice, beh, se poi dopo mi crolla tutto, questi mi pagano fra 30 giorni un prezzo diverso da quello che ho pagato prima. È una specie di assicurazione, ecco, chiamiamo in questi termini. Questa opzione, a quel tempo lì, prima dell'attentato, valeva 2,5 dollari, dovevi spendere 2,5 dollari. Dopo, naturalmente, è aumentata. Dopo l'attentato questa opzione valeva 12 dollari. Quando poi fai questi contratti sull'opzione, non devi per forza avere tu in mano le azioni. Tu hai in mano un'opzione. Poi se hai in mano le azioni le rivendi, oppure rivendi la stessa assicurazione che hai comprato, l'opzione che hai comprato. Chi sapeva dell'attentato? Diciamo Al Qaeda, ma probabilmente c'erano anche altri. Cosa ha potuto fare? Chi lo sapeva? Probabilmente ha comprato, sapendo poi che con l'attentato l'azione sarebbe andata giù, ha comprato queste opzioni, perché questa opzione gli permetteva di vendere il titolo a 30 dollari ed era un contratto che andava a scadere il 20 di ottobre. Quindi chi comprava queste opzioni si riservava il diritto di vendere a 30 dollari entro il 20 di ottobre. Chiaro? Dopodiché, dopo l'attentato, chi aveva in mano queste opzioni cosa può avere fatto? Poteva, se non aveva in mano le azioni, comprare le azioni a 18 dollari dopo l'attentato, e avendo in mano l'opzione avrebbe potuto rivenderli a 30. È chiaro? Il calcolo che è stato fatto da Chesney, un guadagno del 66%. Oppure l'altra roba che poteva fare, aveva in mano le opzioni a 2,5, dopo il 17 settembre questi valevano 12,5, poteva rivenderle e in quel caso lì ha avuto un rendimento del 380%. Senza possedere nessuna azione. Un calcolo così che è stato fatto ci fa dire che un investimento di 300.000 dollari ha voluto dire portare a casa, nel giro di pochi giorni, qualcosa come 1,14 milioni di dollari, e se l'ha fatto Al Qaeda. Poi, se volete, parliamo anche di Al Qaeda e del suo aspetto finanziario, no? Molto legato, per esempio, alla Barclays, che è una banca inglese. Ma qual è la cosa interessante che Chesney ha rilevato? Tra il 21 agosto e il 7 settembre 2001, di questi contratti sull'American Airlines di opzione, ogni giorno in media ne venivano trattati 24, in quel periodo lì, tra il 21 e il 7 settembre. Ogni giorno 24 contratti venivano fatti. Misteriosamente, il 10 settembre 2001, il giorno prima, questi contratti sul titolo dell'American Airlines, con la possibilità di venderlo a 30 dollari entro il 20 ottobre, diventano 1535. Strano. Con questo non abbiamo nessun indizio per dire che c'è una colpevolezza, però strano. La stessa cosa avviene sulla United Airlines. Nel medesimo periodo i contratti di opzione erano di 10 e 20 al giorno prima dell'attentato. Il 6 settembre, qualche giorno prima, diventano 2000. Strano. Altre operazioni similari avvengono, per esempio, sui titoli di un'assicurazione. Il nome è Marshall McLennan, non vi dirà niente, ma questa assicurazione aveva 1700 dipendenti dentro nelle torri gemelle. Chiaro che il titolo crolla. Il denaro macchiato di rosso. Il denaro macchiato di rosso. E poi bisogna andare a scavare ancora in questo forziere. E se andate sotto sotto e avete un po' di pazienza, esce anche un altro tipo di banconota con un altro colore. Ed è il colore dell'arcobaleno. È il colore della pace. Sono pochi quei soldi di per forziere, ma ci sono. E se questi potessero parlare, queste banconote, vi diranno e vi racconterebbero tante storie. E vi racconterebbero che loro sono stati fieri di essere banconote, di essere strumenti. Sono quelli che sono transitati nella finanza etica. Sono quelli che sono dati in mano alla gente che non ha voluto fare speculazioni, che non ha riciclato, che non li ha transitati nei paradisi fiscali. E questi soldi del colore arcobaleno sono i soldi che, seppur pochi, danno il grande segno della speranza ancora, nonostante tutto. E ci sono. E forse questa crisi aiuta a diffondermi sempre di più. Su questo colore arcobaleno potrei raccontarvi tante di quelle storie che ho vissuto. In particolare, me ne ricordo una perché era successo tanti anni fa, ma mi era rimasto impresso. Fui invitato a parlare a Platini. È un noto paese dell'Aspromonte, dove c'è un po' di 'ndrangheta. Andai e mi accompagnarono in questo paese, impiegando da Reggio Calabria non so quante ore, perché lì giravano i cartelli. Non si riusciva ad arrivare, ma ero con delle persone di lì. Ed era inserito all'interno di una manifestazione che hanno organizzato circa 10-12 anni fa su mafia e denaro, e volevamo fare alla Madonna di Polsi, che è un santuario dove sacro e profano viene mischiato, dove dicono che la 'ndrangheta durante la festa della Madonna si radunavano e decidevano le strategie, usiamo questo termine. Non ci permisero di farlo lì. E andammo da un'altra parte. E all'interno di quella settimana mi invitarono a Platini. Io arrivai lì in questo paese. Entrai in questa sala comunale dove dovevo appunto tenere una riflessione. La persona più giovane aveva 19 anni, perché tutti gli altri erano stati minacciati e non potevano venire ad ascoltare queste cose. E non venivano perché poi avevano delle ritorsioni, anche se qualcuno probabilmente voleva farlo. E ci fu una ragazza, non la ricordo bene, che durante la discussione mi chiese: ma io voglio fare la parrucchiera e non ho i soldi. Qui a me non la danno, perché il sistema qui, sì, lo so. Ebbene, non ricordo più quanti miliardi, quanto era, ma non era tanto, adesso non mi ricordo più quanto era l'ammontare. Gliel'abbiamo dato nel nostro operare nel microcredito. E quei soldi hanno fatto sì, ho saputo poi dopo da altri, che il suo sogno è stato realizzato. Questo è aperto poi dopo questo negozio, insomma, non so se poi era un negozio oppure fa in casa, insomma, non so, o per questa attività di parrucchiera, no? Questo è il denaro della pace. Come il denaro della pace è quello che viene utilizzato per aiutare quelle grandi uomini e donne che in Italia, soprattutto nel sud, sfidano la malavita e entrano nei beni confiscati dalla mafia, a lavorarci, a farli diventare immobili di socialità. Il denaro della pace è quello che si rifiuta di fare rientrare capitali illegali con delle sanatorie. Bisogna avere il coraggio, in Italia è stata solo Banca Etica a rifiutarsi. Tutte le altre banche hanno accettato questi altri soldi. Sono usciti nell'illegalità, rientrano senza neanche pagare comunque pochissime tasse. Sono i soldi della pace quelli che vi dicono a voi che il denaro vostro deve essere utilizzato per quello che voi pensate sia il bene, per i valori ai quali credete. Il denaro della pace non può accettare i segreti bancari. Il denaro della pace deve essere dichiarato. Quando uno mette i soldi in banca etica, fa un'autodichiarazione e dice che quei soldi non arrivano da vicende poco lecite. Certo, un'autodichiarazione, voi direte, conta come due di picche, è una dichiarazione morale. E il denaro della pace è quello che chiede con forza che ci sia un minimo di tassazione sulle transazioni finanziarie. Abbiamo chiesto con una campagna lo 0,05 di tassazione sulle transazioni finanziarie. Adesso i francesi con pari, che vogliono portare avanti anche in maniera unilaterale questa cosa. Gli inglesi si rifiutano, e ahimè, certo, la City di Londra fa un po' di volumi rispetto agli altri paesi. Ma vi pare possibile che ormai c'è una tassazione su tutto e sulle transazioni finanziarie non si possa arrivare ad un minimo di transazioni? Guardate che lo 0,05% a livello mondiale, un calcolo che abbiamo fatto, significano 766 miliardi di dollari, e sarebbe una risoluzione se quell'ammontare di soldi venissero destinati, per esempio, a tamponare il problema della fame. Ce la fa con 766 miliardi di dollari. Poi non riusciremo mai a farlo, perché sono soldi, naturalmente, no? Ma per dirvi la possibilità di cose di questo tipo. E il denaro della pace è quello che deve essere moltiplicato, e questo spetta a tutti noi. Tutti noi abbiamo questa responsabilità. Questa crisi, come dicono i cinesi, può essere anche un'opportunità. I cinesi, perché l'ideogramma della parola crisi per i cinesi ha un duplice significato: crisi e opportunità, dipende. Dobbiamo sicuramente metterci in testa che probabilmente il modello di vita che abbiamo avuto non è più sostenibile. Ma non vuol dire che è peggio quello che andremo a creare, dipende da noi. Non vuol dire che è peggio, dipende. Ci hanno massacrato le relazioni, per esempio. Non è detto che con un po' più di tempo, con un po' più di equilibrio, si abbia la possibilità di avere relazioni un po' più sostenute rispetto adesso, a quello che viviamo oggi. Dipende. Certo, quando si fanno crisi e si passa ad altri equilibri, non sappiamo mai quanti morti e feriti si lasciano sul campo. Ma anche questo probabilmente rimanda a una nostra responsabilità, ad un nostro giocarci, metterci in campo anche noi. I soldi hanno colore, i soldi parlano. I soldi hanno i loro sacerdoti, hanno i loro tempi. E hanno potuto arrivare a tanto, ma perché un pensiero, una convivenza, la gente gli ha permesso di essere. Oggi noi dobbiamo probabilmente fare un'altra cosa, e vi racconto e termino, come spesso ultimamente chiudo le volte che mi è consentito di parlare, citando sempre, qualcuno di voi forse avrà già sentito, citando sempre Socrate, questo grande filosofo, lui che era almeno di lui non ha scritto nulla, ha scritto Platone e Aristotele. Loro scrivono, a un certo punto Platone scrive che Socrate era un morigerato, era uno che andava in giro con i sandali, e però era uno innamorato del mercato, gli piaceva andare a lavorare, piaceva vedere le bancarelle del suo tempo. E allora raccontano che i suoi discepoli l'hanno fermato e gli hanno detto: senti Socrate, ma tu che sei così morigerato, sei un frate quasi, no? Noi diremmo oggi, perché sei così affascinato dal mercato? E lui candidamente gli ha risposto: io vado al mercato perché guardo di quante cose posso fare meno. Grazie. Penso ci saranno domande, se no comincio io a farne una, se c'è qualcun altro prima di me. Domanda semplice magari no, però come prima domanda volevo farti è questa: quanto incide la possibilità di avere una valuta sovrana sul debito, sulla crisi italiana? Faccio un esempio: il Giappone ha un debito pubblico che è il doppio del nostro, eppure avendo una valuta sovrana loro possono in qualche modo stampare valuta e pagarsi il debito, a patto ovviamente di avere una economia un certo tipo che permette di vendere questi prodotti con la valuta locale. L'Italia non ha una brutta economia a livello di beni prodotti. La mancanza della, tra virgolette, lira, della valuta sovrana, che permetteva di stampare una valuta sovrana e di pagarsi in qualche modo il debito, ma di avere un euro che non è stampabile, ma può essere solo cercato sul libero mercato, forse mette un po' in crisi le cose. Domanda, non so se riesce a dare una risposta. Cioè, quanto incide la mancanza di una valuta propria sulla sua crisi? Ci sono altre domande? Poi faccio ancora io una settimana. Ti dirò con il discorso del denaro a Covaleno e ci rifacciamo per conoscenza davanti alla parte. Ma so che il sistema delle banche etiche è un sistema europeo, mondiale. Qual è l'incidenza reale in termini, come dire, non di potere, ma di quantità economica rispetto al mondo della finanza? Vuoi il microfono? No, vedo bene. Se ritieni ancora possibile salvare l'euro e se riesci a identificare chi sono le potenze speculative che da mesi stanno distruggendo l'euro. Nomi, cognomi, numeri di scarto, codici fiscali. Domanda semplice ma doverosa fare. Quanto questa crescita economica, che in qualche modo poggia su delle risorse limitate che ha questo pianeta, non, come dire, produco un sistema che non può stare in piedi, quindi alla lunga, visto che i consumi crescono, paesi come la Cina e l'India che stanno consumando tanto, le risorse si esauriscono, l'economia, quella anche reale, può continuare a crescere quando le risorse sono limitate. Cominciamo con questo, la Io dall'osservatorio che ho, se l'Italia avesse avuto ancora la lira, era già andata. Questo è quello che credo io. Poi, come tutte le cose opinabili, naturalmente, no? Cioè, sono d'accordo sul fatto che l'Italia sicuramente non è quella che è messa peggio rispetto al... Se dovessimo analizzare per esempio il sistema bancario, quello francese rispetto a quello italiano è peggiore, anche dal punto di vista patrimoniale. Io credo che l'euro ci ha aiutato, nel senso che in qualche modo tutte le nazioni hanno dovuto mettersi almeno intorno a un tavolo e cercare, tra virgolette, di salvare quelli più deboli. Quello che è mancato probabilmente è invece l'Europa politica, questa è quella cosa che è mancata. Cioè tu non puoi fare, a differenza del Nord America, tu non puoi fare soltanto una moneta e sperare che questa naturalmente regga qualsiasi conflitto o qualsiasi burrasca. È evidente che la dimensione politica è mancata ed è pesante questa mancanza. Non penso che una valuta di questo tipo, la valuta cosiddetta che tu chiami sovrana, avrebbe peggiorato probabilmente la crisi in Italia. Questo è quello che penso io. Certo, su questo invece mi dai il via ad aprire una riflessione che non facciamo adesso, che è invece quella delle monete complementari, che sono esperienze che qua e là, a macchia di leopardo, sono in giro per il mondo e che sicuramente sono interessanti. L'ultima che ho vista oggi, che non conoscevo, è questa moneta chiamata Sardex, mi sembra, Sardex, che è utilizzata in Sardegna. Non è una moneta vera e propria, sono convenzioni con gli esercizi commerciali, sono delle monete locali. Noi abbiamo fatto questa esperienza 10 anni fa lanciando la moneta dell'Aspromonte. Tra l'altro lì non so quale santo ci abbia guardato giù, perché ci ha stampato, lì invece è stampata proprio la moneta, la zecca dello Stato, che è, cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? E c'erano queste banconote Aspromonte e che venivano utilizzati nel posto, negli esercizi commerciali, no? Cioè uno acquisiva quella banconota, il cambio mi sembra, adesso non ricordo più cos'era, era 1000 lire, poi è diventato 1 euro, adesso non mi ricordo più, comunque al di là del cambio, uno arrivava lì nell'Aspromonte, cambiava i suoi soldi, prendeva queste banconote e poteva andare a comprare la cosa nei paesi convenzionati, un po' tutta quella zona, e aveva anche dei piccoli sconti. L'idea era anche in questo modo di incrementare, no? Cioè, l'economia locale. E poi dopo hanno cambiato il presidente del Parco Aspromonte e l'hanno segato completamente questa esperienza. Però proprio ieri, oggi ho letto che in Sardegna, e non la conoscevo, però non ho avuto modo di approfondirla, quindi non so dirvi come funziona e come va. Però questo è altro tema. Altro tema, sì. In Europa noi abbiamo due organizzazioni. Una si chiama FEBEA, sono le Federazioni Europee delle Banche Etiche. L'altra si chiama SEFEA, è la Società Finanziaria delle Banche Sempre Etiche. Esiste poi un organismo a livello mondiale che si chiama Microcredit Summit, che è riunito nel nome del microcredito e che ha un peso sicuramente interessante. Sono gocce, conta niente, nel senso che sui volumi che vi dicevo prima, è lo 0,000, non so neanche quanto è, ma non è assolutamente niente. Devo dire però che in più di 20 anni questa cosa ha sicuramente preso un piede e comincia a avere delle radici. Se voi pensate che Banca Etica oggi raccoglie qualcosa come 710 milioni di euro, comincia già a essere un qualcosina, non di grande, piccolino, ma un po' più sostenuto, insomma. È simile a una grossa cassa rurale, ecco, se devo usare un paragone. Se pensate che i finanziamenti che viene fatto da Banca Etica ormai sono, anche questi ammontano sui 730-740 milioni di euro, vuol dire che un qualcosina comincia a muoversi. Questo denaro color arcobaleno un po' si sta moltiplicando. È lento il processo, perché non c'è cosa come il denaro che abbia questo aspetto di intimità e di sacralità che è difficile da smuovere. Ci deve essere dentro una motivazione profonda, un credo profondo. Interessante sarebbe appunto ragionare sul denaro, su quale dimensione ha assunto nella nostra convivenza e nella nostra società. Ci sono molte banche, ce ne saranno almeno una trentina in Europa, sono di due tipi. Una è più collocata verso il nord Europa, e quindi sto parlando di Germania, sto parlando di Belgio, di Olanda, paesi nordici, dove la connotazione di queste banche è più ecologica, è più il mondo verde che le ha generate, e alcune sono state generate dalle chiese, sia cattolica che protestante. C'è invece poi l'esperienza dei paesi più a sud dell'Europa, di cui quella un po' più di punta è Banca Etica, sono esperienze di banche che nascono invece dal sociale, hanno anche la componente ecologica, ma non è preminente, nel senso che nasce nella socialità, nel mondo associazionistico, cooperativistico, tutto questo mondo. Il cosiddetto terzo settore, società civile, nascono lì. Sono, secondo me, segni importanti. Non sono più solo testimonianze come 15 anni fa, oggi hanno anche un po' di solidità. Non sono al di fuori del mercato e subiscono i contraccolpi del mercato, perché anche Banca Etica in questo periodo subisce la crisi di spread, li subisce anche Banca Etica. Poi non subisce altre cose perché non ha un aspetto finanziario sostenuto Banca Etica, e quindi come tale non corre grossi rischi. Sicuramente però sono banche che, pur essendo del mercato, vedono di non essere appunto posseduti da questo mercato, utilizzano altre logiche, un'altra modalità di fare banca. Il tema è sicuramente quelli di farli conoscere, ma questo tema che al quale non do grossa importanza, perché io ritengo che ci voglia il tempo, ci voglia molto tempo. Queste cose sono profonde, non si possono vendere con due battute, due stop. L'euro, io credo, è una bella domanda questa, va. È una bella domanda, e non lo so, a me riesce difficile. Angelo, cosa dici tu che sei più bravo di me? Non lo so. Salvare l'euro. Io spero che lo salvino, però sicuramente io non ho la certezza che si salvi. Certo, qualcuno dice che non sarà così. Vedete, gli attacchi, come dice lei, all'Europa, ma sono molto chiari, no? Vi faccio un esempio. Voi avete adesso sentito parlare continuamente di queste robe qui che si chiamano agenzie di rating, perché ormai è diventato quasi linguaggio comune, no? Standard & Poor's, Fitch, avete sentito queste robe qui, no? Questi chi sono? Queste sono agenzie che danno dei voti. È come il professore che dà il voto allo scolaro, no? Utilizzano altri punteggi, non è il 10, il 9, loro usano tripla A, 2A più, cioè è un altro modo, però tripla A, i 10, poi vai giù a scalare. Danno i voti. E danno i voti a chi? Danno i voti alle nazioni, danno i voti alle società. E quando questi esprimono un voto, e come dicono loro, declassano, cioè da 10 ti porto a 8, il mercato in genere dice, allora quelli lì se li hanno tirati giù, vuol dire che va male. E allora bisogna stare attenti. Bisogna vendere i titoli che è in mano di questi e sicuramente vanno a finire male. Ma vi dico una cosa. Queste sono agenzie di rating nordamericane. Prendiamone una. Una di queste, la Moody's. Questa è una società per azioni. Il 49% del capitale di questa agenzia di rating è posseduto dai grandi fondi di investimento nordamericani. Il primo socio è un finanziere che forse voi non conoscerete, ma si chiama Warren Buffett. È uno speculatore, è un investitore nordamericano straricco e lui ha il 19,1% di questa società. E allora, vediamo se riesco a farmi capire, e allora, se io sono quello che investe con i fondi, quindi ho parecchi soldi da investire nelle borse, e ho una forte partecipazione in coloro che stabiliscono se tu sei bravo o non sei bravo, rispettando la professionalità di chi ci lavora, per l'amor di Dio, non può venire il sospetto che forse io posso saperlo anche un po' prima, se l'Italia viene declassata o se la tal società viene declassata, e quindi forse fare anche delle operazioncine che mi porta qualche utile. Perché se io so che l'Italia domani mattina viene declassata, due giorni, tre giorni prima faccio delle operazioni, a seconda di quello che accade, e vendo o compro, ma perché lo so prima. Ma se queste agenzie sono poi quelle che nel loro percorso hanno fatto delle grandi cantonate, dando per esempio dei voti alti a società che sono crollate, la Lehman Brothers è una di queste, ma la stessa Cirio, stesso Parma, per l'amor di Dio si può sbagliare, come tutte le cose, non è un giudizio su chi ha fatto questi studi che l'avrà fatti correttamente, non sono il Vangelo queste robe qua. E perché proprio una settimana fa, quando l'Italia si è messa in moto attraverso il governo Monti con operazioni pesanti per tutti noi, e ha dato il segnale che si poteva ripartire, questi arrivano e declassano, proprio in quel momento lì. Sono chiari i nomi? I nomi di chi sta dietro a quelle cose qua? Sono le grandi lobby, sono le grandi potentati, concentrazioni finanziarie che hanno un pelo sullo stomaco e non guardano in faccia a nessuno. Non hanno problemi. E dicevo prima che se gira qualcosa come 3.000 miliardi di dollari al giorno, ragazzi, 3.000 miliardi di dollari al giorno puoi mettere in croce qualsiasi paese. Ma quando ci fu il crack in Italia, l'anno non me lo ricordo più, sulla lira e sulla sterlina, era stata fatta da un grande finanziere che si chiamava Soros, che adesso si è convertito, pare. Ed era il cosiddetto settembre nero. L'anno non me lo ricordo. Cos'era? Non mi ricordo più l'anno, sì. E dietro c'erano, e ci sono questi. Ora, se l'attacco viene fatto all'Europa è probabilmente per salvare qualcosa d'altro. Può essere salvare il Nord America, però io non ho elementi per poter dire questo. sta di fatto che queste lobby sono quelle che oggi e da troppo tempo comandano in questo mondo. Per assurdo sempre dico, la politica ormai è asservita alla finanza e all'economia, e qualsiasi provvedimento politico uno voglia fare, ironizzo, prima si gira e deve guardare come reagisce la borsa. Siamo così. E se la borsa reagisce male, io non lo faccio, perché se no succede chissà che cosa. Le risorse esauriscono, è vero, questo è un tema reale, alcuni studi dicono che ne avremo, a parte il petrolio, ma anche per le risorse, ancora per, non dipende, da 30-40 anni, è ovvio che non ci potrà essere una crescita continua. Quando noi ragioniamo sul PIL, queste robe qui continuano a dire di consumare, crescere, ma santa di miseria, a un certo punto finisce, finisce. E allora o tu sei saggio e previeni queste cose, oppure quello che capiterà è che finendo di colpo il riequilibrio, l'equilibrio che bisogna trovare sarà drammatico, perché o tu lo piloti e quindi hai modo di condurlo, e quindi tu dici, beh, qui la situazione è questa, bisognerà probabilmente vedere che a livello di consumi di contenerci un attimo, sto banalizzando naturalmente, no? Ma se arrivi al punto tale che non ce n'è più, il crollo sarà drammatico. Sì, sì. È ovvio che non puoi andare avanti. Ora, tu ti devi consumare. Sì, perché? Perché tutto è calcolato, sebbene ultimamente anche certi soloni e pensatori neoliberisti ormai cominciano a mettere in discussione il come fatto, cominciano a dirti queste cose qui, robe che lo stesso agenzie dell'ONU dicevano 20 anni fa e che non sono mai state prese in considerazione. Probabilmente per quello che stai dicendo tu, che ormai è una cosa comune l'aver appreso che non puoi andare avanti sempre così, è evidente che si comincia a iniziare a elaborare un pensiero diverso da questo. Allora si comincia a dire, il PIL non può essere calcolato soltanto perché mi metti dentro 20 prodotti, fai il calcolo su questo, ma probabilmente ci metti dentro l'assistenza, la felicità, la convivialità, le relazioni. Quanto pesano queste robe qua? È un processo però sicuramente che a mio parere è lento, però sta venendo avanti. Purtroppo ancora oggi, se voi guardate, oggi il Fondo Monetario Internazionale ha dato 1,2 in meno di crescita all'Italia, no? Dramma. Sì, ma noi non potremo sempre aumentare del 10%, cioè, ma come fare? Cioè, non è che puoi sempre andare così, perché gli schemi utilizzati sono quelli, sono ancora questi, sono i paradigmi che bisogna cambiare. Dentro qui vi è una grande riflessione che noi dobbiamo fare, che è quella che a livello di economisti, a livello di gente che in futuro si occuperà di queste cose, dovrà utilizzare altri modelli. Qui viene in campo l'università, il modello di economisti che escono, le riflessioni su economia e finanza, ma c'è ben poco. Ecco, noi pubblichiamo questo giornale Valori, che dopo per chi vuole lo può acquistare, il giornale Valori, che è un mensile, è uno dei pochi d'Italia che fa riflessioni e dice delle cose con questi parametri diversi, però siamo all'anno zero. Però in questo senso siete condizionati, prima si diceva di un peso, io ho chiesto un peso economico, no? Però in un sistema che è monodirezionato, in un sistema monodirezionato, è evidente che la banca etica per il solo fatto di stare dentro il mercato ha acquisito una credibilità ed è l'unica che vede le cose con una prospettiva diversa. Infatti adesso il cerchio quadra del che dici, e così è stato anche nella relazione di alcuni economisti che cominciano a mettere dentro altri valori sia nel PIL che in altri parametri, e fanno riferimento alla riflessione che è da voi non lo so. Quindi, come dire, questa peculiarità della banca etica e delle banche etiche ha fatto sì che ci potesse essere un pensiero diverso, per cui ci potessero essere le risorse per ricominciare a gestire la modificazione del sistema senza farla veramente agire. Poi la tragedia ci sarà, però io sono ottimista in questo senso. Su questo mi permetto di aggiungere soltanto una cosa, perché è profondamente vero quello che adesso che ha detto. A distanza di 20 anni io mi sono accorto che abbiamo messo in campo l'esperienza di banca etica, ma è stata un qualcosa che è venuto dal basso, dall'esperienza, non è stata teorizzata. Probabilmente quello che sta dicendo è che questa roba deve venire. In genere invece è la teorizzazione, il pensiero che tu poi dopo metti in atto. Qui è stata più una percezione, avendola vissuta, più una percezione insieme ad altri, ma più una cosa che ritenevamo che doveva essere giusto, perché capivamo che era il giusto, ma non c'era una teorizzazione dietro, non c'era una visione di economia diversa. Probabilmente queste esperienze, non solo banca etica, ma le altre di economia cosiddetta diversa, permettono probabilmente anche al mondo intellettuale di elaborarci dietro un pensiero di sostegno. Cioè, un po' una cosa che è successa e capovolta, è vera questa cosa, sì. Un'altra domanda rapida. Ah, no. Una cosa sola sulla sperare in etica della finanza. C'è questo movimento. Guarda il prossimo incontro, fa qualche incontro. Certo, sì. C'è Mauro. Ah, è Mauro, sì. Sì, perché qualunque ci sarebbe un'altra oretta di mia esposizione, sì. Però viene Mauro, Meggiolaro, non so quando. A maggio, faremo un incontro a maggio proprio per parlare di finanza etica. E in particolare parla sull'aspetto non bancario ma finanziario, sì. Ah, una domanda su uno degli effetti che la crisi ha portato. E che riguarda il mondo del lavoro soprattutto, che preoccupa un po'. Cioè, da una parte questa necessità di contrarre i consumi dovuta alla crisi porta a una riduzione delle opportunità di lavoro e quindi una riduzione dei posti di lavoro, che a sua volta porta a una contrazione dei consumi, cioè diventa un po' una situazione a cascata che come effetto negativo che vedo è quella difficoltà di dare una piena occupazione a tutte le persone che vorrebbero lavorare. E non vedo molto una via d'uscita. Volevo chiedere una cosa legata al colore dei soldi, una metafora che ho fatto. C'è anche per caso un tentativo da parte di alcuni, anziché di lavare ma di colorare i soldi di colore rosso piuttosto che invece di colorarli in modo arcobaleno? Cioè, non ho capito proprio che tentativo da parte di alcuni di rendere etici comunque sì, velocemente sul mondo del lavoro, ma quello che stai dicendo è figlio sempre di paradigmi che noi abbiamo, no? Cioè nel senso che noi pensiamo che la piena occupazione sia di un certo tipo, figlia di un paradigma che fino a oggi è esistito. Voglio dire che l'occupazione può essere probabilmente fatta in maniera diversa. Adesso il classico, uno ti dice uno ritorna alla terra, dico classica cosa che viene detta, no? Probabilmente, siccome questo è un ciclo vizioso e non vieni fuori, esci nella misura in cui ribalti quello che stavo dicendo prima, no? Ribalti quella che è l'equilibrio sulla quale noi oggi siamo fondati. L'economia oggi è fondata fondamentalmente sul denaro come strumento. 90% del lavoro per le cose altre, 10% del lavoro. Se voi pensate per esempio alle esperienze ancora non decollate delle banche del tempo, per esempio, che sostituiscono in un'economia l'elemento denaro, probabilmente ci fa capire che anche questa cosa qui potrebbe essere riparametrata. Ci vorrà tempo, non so se sono stato chiaro, no? Se lo ragioniamo sul fatto che la mia occupazione, il lavoro deve essere come quello di 30 anni fa, non ne veniamo fuori più, non ne usciamo. Probabilmente bisogna pensare a un modello anche di lavoro, anche del tempo lavoro. C'è chi sta anche rimodellando l'urbanistica. Probabilmente deve essere cambiato tutto, perché se non sostiene più se quello che fino adesso ha sostenuto il modello di convivenza economico e civile, se questo non regge più, bisogna cambiarlo, ma cambia tutto. Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Non so dove andremo a parare, questo non lo so, ma nessuno credo che lo possa sapere, no? Ma tutte le avvisaglie ci sono. Quanti oggi hanno, oggi, già da adesso, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato? Se noi guardiamo le statistiche, negli ultimi anni sono pochissimi quelli che hanno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Già questo fa cadere uno dei capisaldi di quello sul quale il lavoro fino adesso era vissuto. Oggi allargano il tempo della pensione, e i giovani? Il tempo della pensione dobbiamo allargarlo, perché se no salta l'Italia, sto sintetizzando, no? E dall'altra parte però i giovani non arrivano più nel mondo del lavoro. Probabilmente è tutta una convivenza che io credo che verrà per forza di cose modificata, ma verrà modificata perché saranno le condizioni che ce lo imporranno. Voglio dire che gli equilibri che fino adesso ci sono stati, e quindi la concentrazione di ricchezza soprattutto in Europa, Giappone, Nord America, questa roba qui non potrà più essere, perché solamente giganti come Russia, come India, come Brasile, come Cina spostano il baricentro della ricchezza. Non potrà più essere così. Noi siamo potuti essere così perché altri hanno pagato per noi, non dimentichiamo, altri hanno pagato per noi. L'equilibrio è stato tale perché qualcuno in questo mondo ha pagato, mi riferisco a alcuni continenti in particolare, naturalmente Africa ed altri. Se cambi questo equilibrio e sono altri i territori che diventano ricchi, i nuovi ricchi, sapete chi sono? Singapore, per esempio. Il nuovo G8, G9 o G20, ma pensate che l'Italia ci sarà dentro. E quindi cambiando questa cosa è evidente che dovrà rivedersi un po' tutto, è inevitabile. Allora la saggezza dove sta? La saggezza è pilotare queste cose, non subirle, ma per poterle pilotare tu devi avere la coscienza. Questa coscienza non esiste, tantomeno a livello politico. L'altra domanda, ho scritto male, non riesco a leggere, cos'è che era? Se esiste un tentativo da parte dei comuni di... Certo, sì. Beh, qui il classico esempio è che da quando è nata Banca Etica le banche hanno buttato fuori i prodotti etici. L'etica sta diventando un business. E guardate che il mercato, per assurdo, se noi riuscissimo a far diventare l'etica un qualcosa di redditizio, il mercato l'abbraccia. Il mercato è capace di abbracciare la mafia e l'etica, basta che direte. Se l'etica rendesse più della mafia, il mercato la prende, non c'è problema. E sarebbe il massimo che noi riuscissimo a fare, questo. Quindi è chiaro che se l'etica tira, cioè c'è ormai una opinione diffusa nel paese che l'etica è un elemento importante, io faccio il prodotto per l'etica. Poi io faccio il prodotto per l'etica, faccio questo. Poi con questo posso andare a massacrare in giro per il mondo e li metto insieme. Perché lì il detto, la mano destra non sa quello che fa la sinistra. È vero. E quindi certo che sono queste operazioni. Come? Voi prendete il fotovoltaico, una cosa etica. C'è mano alla mafia, È una cosa etica. Ferruccia, vero no? Domanda semplice, la mia altezza. Hanno un colore i soldi che si trovano nella busta paga sotto i 1500 euro al mese? E poi si un'altra cosa. Hanno un colore i soldi che ricevono i lavoratori che hanno una busta paga sotto i 1500 euro al mese? Colore della povertà, che non so qual è. E un'altra piccola cosa, visto che la domanda, la risposta è stata veloce, non me la ricordo più. Sì. Volevo capire qual è il ruolo della Banca Centrale Europea, cosa fa? Perché so che ha dei vincoli, però cioè, ma cosa serve? Non lo so. No, quello della Banca Centrale Europea è importante. Quando tu crei una moneta unica a livello europeo, devi avere l'istituzione finanziaria che governa a livello europeo. Il problema è che è di storia, è culturale, cioè l'Europa, noi abbiamo una storia come nazioni molto divisa, pensate soltanto alle lingue, no? Che sono diverse, a differenza per esempio da Nord America. Ora, lì così poi dopo è un esercizio di equilibrio degli interessi delle varie nazioni, questo è il dramma. E quindi come tale diventa difficile da gestire. Certo, il suo ruolo sarebbe quello di essere l'istituto centrale a livello europeo, essendoci l'euro come moneta unica europea, e fare le funzioni, sebbene poi a livello nazionale ogni nazione ha l'istituto centrale suo, quindi Banca d'Italia esiste ancora, per quanto concerne tutte quelle attività che sono precipue proprio della nazione stessa. Dai controlli, dalle ispezioni, dalle autorizzazioni ad esercitare e a creare delle banche. Oggi io credo che il tema è sempre quello che dicevo prima, è che non avendo un'Europa politica forte è evidente che non puoi pensare che sia l'aspetto finanziario, bancario, dell'Istituto Centrale Europeo che faccia questa funzione. Voi avete visto, no, negli ultimi tempi come mettere d'accordo a livello europeo le varie nazioni è sempre un'impresa, e questa è la sua debolezza. Una delle cose che poteva fare, per esempio nella crisi, qualcuno ha suggerito che la Banca Centrale Europea iniettasse una miriade, non solo una miriade, c'era un economista che sosteneva questa tesi, che poteva essere anche plausibile, che di fronte alla crisi l'Istituto Centrale stampasse euro in maniera illimitata per fermare la speculazione. Questa era una cosa che era stata suggerita, vale a dire, per fermarli tu continui tutto al dentro. È chiaro che questo genera poi dopo inflazione, ma anche lì, su questo aspetto specifico, era difficile che la Banca Europea riuscisse a trovare un consenso da parte di tutti. Il nodo è un po' sempre quello: la debolezza dell'Europa sta nel fatto che sono una miriade di nazioni che da sempre sono state diverse l'una con l'altra, non hanno una comune visione politica, si trovano tra l'altro a partecipare dentro lì provenienze di paesi diversi, che al governo ci sono politiche profondamente diverse, e quindi mettere insieme tutta questa cosa diventa complicata. È la sua debolezza, questo è. Luca. Sulla traduzione delle transazioni finanziarie, come altre tasse si vuole far cassa o si vuole evitare che certi fenomeni avvengano? E quindi un po' la domanda è anche a volte, cioè quelle transazioni sono tutte di uno stesso colore, o vorremmo, se si vuole, colpirne alcune e salvaguardarne altre? Perché sennò poi mi ritroverai in tasca denaro di quello che non volevo, in sostanza. Sì, io credo che in questa situazione in particolare è per fare cassa, in questa situazione sicuramente lo è, cioè nel senso che se passa, sebbene non sappiamo, l'ipotesi di una tassazione dello 0,01, perché questo è quello che è stato proposto dai francesi, 0,01 sulle tassazioni finanziarie, è principalmente per fare cassa per il paese, cioè sicuramente. La proposta che noi avevamo fatto era quella invece di applicare una tassa sulle transazioni e il ricavato finalizzarlo invece allo sviluppo delle sacche dei paesi cosiddetti impoveriti. Questa è la proposta che avevamo fatto. Allora vuol dire che quelle transazioni alla fine le voglio per portare a casa qualche cosa. Scusa? Vuol dire che quelle transazioni io le voglio per averci la percentuale. Ma quelle vengono a prescindere. A prescindere. Transazioni finanziarie ci sono, non è che non ci sono. Cioè si dice a fronte allora 002. Come? Allora facciamo 002. Voglio dire, le transazioni finanziarie ci sono a questo mondo e non credo che domani mattina termino. Allora l'idea è perché questo aspetto delle transazioni finanziarie non deve essere tassato. La proposta che noi abbiamo fatto è questa. Ripresa poi, noi avevamo fatto un documento, eravamo andati da Tremonti, che l'aveva portato al G8 di quel periodo, e da lì che è partita la riflessione da parte di alcuni governi. Non so per qual motivo la Francia ha abbracciato, i tedeschi hanno posto un po' di resistenza, però il governo attuale pare abbia aperto anche, c'è il no secco da parte dell'Inghilterra. Ma al di là poi dopo dello specifico di quello che può essere ricavato di questa transazione, io credo che sia un messaggio importantissimo questo, che anche questo mondo dove transitano, vi dicevo, queste miriadi di soldi, anche loro, come tutti gli altri, una piccola tassa, che è una proposta che aveva fatto il Nobel per l'economia Tobin, che da lì ha preso il nome Tobin Tax, che lui che aveva proposta forse 25 anni fa, ha proposto questa cosa, non è mai stata applicata, e forse adesso, non so, arriverà, se riescono. La Francia ha detto che lo fa in maniera unilaterale, perché una delle motivazioni che adducono sul fatto di non inserirla è che o si fa a livello mondiale o non lo facciamo, perché se la facciamo soltanto noi, tutti i capitali vanno dove la tassa non c'è. Questa è la motivazione che viene addotta al fatto di non inserire questa tassa. Un'altra domanda, Lucia, si è ricordata la domanda. Cosa possiamo fare noi domani, a seguito di quello che ci ha detto lei stasera, di concreto noi? Noi possiamo fare tante cose. Primo, controllare i nostri risparmi come vengono utilizzati. E se ci accorgiamo che le banche dove noi abbiamo depositato i soldi fanno qualcosa di poco carino, spostare i soldi. Ce lo dicono quello che fanno? Non ve lo dicono sicuramente, però ci sono i mezzi per poter andare a vedere, l'informazione si può avere. E questa cosa l'abbiamo lanciata e l'abbiamo chiamata con una campagna che si chiama Non con i miei soldi. Vuol dire che tu non devi fare delle porcate con i miei soldi, non con i miei soldi. Questo è l'intendimento. Possiamo fare. Quando andiamo al bar, lo scontrino fiscale ce lo deve dare. Perché se in questo paese questa cultura avanzasse, quella che sta avvenendo adesso, cultura della legalità, e tutti noi ci impegnassimo a far rispettare questa cosa, io credo che grandissimi risultati si potrebbero raggiungere. Perché se in questo paese chi paga le tasse sono soltanto alcuni, gli altri lo devono fare, anche loro. Ma noi dovremmo avere la funzione di essere dei carabinieri da questo punto di vista. Se vediamo delle cose che non funzionano, denunciarle, avere il coraggio della denuncia. Possiamo fare nella finanza, cercare i prodotti, gli investimenti di tipo etico, ce ne sono. Possiamo fare in modo che il pensiero che sostiene la finanza etica venga diffuso, a partire da quei pochi giornali, per esempio, che trattano di queste cose, che fanno fatica a stare in piedi, naturalmente, come tutte le produzioni giornalistiche. Possiamo fare che il nostro stesso stile di vita cominci probabilmente a mettere dentro questi ragionamenti. Poi ciascuno li traduce come crede, e non esiste, naturalmente. Io dico sempre, uno può dire, una delle cose, banalizzo naturalmente, che non dobbiamo fare perché può essere superfluo, è non fumare. E cara grazia, io non fumo, ma uno che fuma ha proprio un problema, no? Quindi poi dopo paralizzo per dire che poi uno deve applicare queste cose nel suo vissuto. non credo a una tabellina nella quale si dice si è un po' più sobri se si fa questo, questo, questo, uno sa bene un po', però probabilmente iniziare a inserire questo tipo di modello ci aiuta a probabilmente a sopravvivere ad un nuovo equilibrio che comunque avverrà per forza di cose. Quello che possiamo fare ancora è rifiutare sicuramente tutte le proposte di tipo speculativo che ci potrebbero arrivare, e a volte capita, non sempre, ma capita. Questo è un tema sicuramente più complicato, perché a volte può darsi che a voi arrivano proposte di investimento in una cosa o nell'altra o nell'altra, e non avendo la capacità per poter discernere si combinano a volte dei guai, no? Allettati da interessi più o meno alti o comunque da altre cose, bisogna starci un po' attenti a tutto questo. Quello che possiamo fare poi, quello di cui estremamente ha bisogno Banca Etica, è diventare soci di Banca Etica, capitalizzare. Questa è una cosa che si può fare domani mattina, perché se le esperienze di economia diversa alla lunga non hanno la capacità di stare in piedi, evidentemente se dovessero annegare, annega anche il pensiero che portano con loro. Non so se ho reso l'idea di questo passaggio, è importante questa cosa, no? E quindi come tale bisogna mettersi nella testa che l'economia cosiddetta diversa, l'economia alternativa, è un'economia che ha pari dignità rispetto all'altra, e chi la esercita avendo dentro i parametri che anche l'altra porta, poi la fa in maniera diversa. E quindi per una banca un capitale sociale è importante, guardate le banche che adesso stanno ricapitalizzando tutti, è ovvio che se Banca Etica non ha una capitale sufficienza a un certo punto non potrà più fare prestiti. E queste sono tutte cose che noi possiamo fare. Quell'altra, che è quella più culturale, è di diffondere e partecipare a incontri come questi. Questi diventano elementi importanti, perché un dibattito, una presa di coscienza su certe questioni, se poi quelle rimangono all'interno di una sala, sicuramente può essere stato interessante più o meno, ma l'efficacia sta nel fatto che chi condivide poi dopo fuori di qui fa altrettanto. Posso farti una domanda, magari rispondo in modo rapido? Sulla rivista Valori, qualche anno fa c'era, si affermava che nel 2010 l'Europa avrebbe introdotto un nuovo indicatore al posto del PIL. Io quasi ci credevo anche, nel senso che stavo pensando, visto che l'Europa va comunque in crisi, il PIL è sempre sotto, però l'Europa ha un buon welfare, una qualità della vita alta, allora perché non introdurre nel PIL qualcosa che tenga conto anche della qualità della vita, che non sono dei soldi? E per quale motivo non si riesce? Posso capire che è una cosa complessa, però capisco anche che potrebbe essere un ottimo strumento per uscire da questa crisi, dove la crisi viene valutata solo in termini di PIL. No? È un processo, Marco, mi ricordo di questa roba, sì, 9-10 anni fa avevamo fatto questo servizio. E perché l'avevamo fatto? L'avevamo fatto perché già le agenzie dell'ONU parlavano di questi termini, e io confidavo nel fatto che appunto se già 10 anni fa si cominciava a valutare il PIL con dentro alcune appunto caratteristiche diverse da quelle quantitative, ma quelle più appunto di dimensione, di felicità, di relazione, tutte queste robe qui. Lo diceva già le agenzie dell'ONU più di 10 anni fa. Speravo. Ma il problema è quello che mi ha detto stasera, il problema è prettamente culturale, di cambiamenti di parametri. Il problema è che probabilmente queste cose avverranno quando crollerà tutto, diciamo in altri tempi. Se le robe verranno giù, ma siamo stupidi, però siamo stupidi. Sì, probabilmente. Poi noi facciamo il possibile in modo che non si arrivi lì. Una sensazione che si ha sempre è che, come dire, che esistono la carne da macello, esistono i macellari. Nel senso che anche giustamente stasera diceva quando vi offro certi prodotti non siete molto in grado di, e giustamente lei diceva, ma noi siamo in grado di chiedere alla banca come usano i nostri soldi o addirittura dire alla banca cambio, perché la sensazione è che è un sistema che funzioni, questo ciò, se c'è la carta del macello, cioè nel senso che perché la gente compra un sapone che sembra migliore degli altri, tutto sapone c'è in giro l'ignoranza, perché la gente compri i bolli dell'Argentina o sul paio d'acqua forte ci deve essere in giro l'ignoranza, cioè deve essere la carta del macello, se no. E quindi vuol dire, ha un senso puntare sulla formazione, sull'educazione, sul crescere delle persone al di là di... Sì. Allora, io credo che sia una domanda che c'è contribuito di quello che c'è stato detto. Comunque, volevo capire come si può uscire dall'attuale economia del debito e se l'esempio dell'Islanda c'entra qualcosa, cosa ha significato, se possiamo fare un riferimento in qualche modo a questo, a cosa è successo. Dall'economia del debito. Esci quando la gente capisce che non ha senso indebitarsi soprattutto per delle cretinate. Quando io vedo dei prodotti fatti da banche che ti fanno il prestito per andare a fare le ferie, abbiamo finito, so se vedo l'idea, perché le ferie le puoi anche non fare, cioè voglio dire, se dall'altra parte invece c'è l'indebitamento, questa è stata l'origine vera di questa crisi, eh? Un super indebitamento, a volte di cose che si potevano fare a meno. Questa domanda rimanda ancora a un dato profondamente culturale, cioè noi non veniamo fuori se qui nella capocchia non si cambia, eh? È lì, è qui che bisogna cambiare. Il problema è che noi siamo su delle scialuppe e dall'altra parte abbiamo le portaerei che ci sparano addosso, il contrario di quello che sto dicendo da questa scialuppa, è chiaro? E allora è evidente che diventa complicatissimo perché la gente per 24 ore probabilmente subisce un martellamento di pensiero che è quello di indebitarsi. Ma non vedete, andate a comprare un divano, ve lo fanno pagare in 36 mesi, vai alla macchina, te lo fanno pagare dopo 6 mesi, vai a comprare altra cosa, alla fine, occupandomi un po' di usura a Milano, e ne vedo parecchie di queste cose, molta gente finisce male perché non si accorge con 100 euro e 150 euro e 60 euro l'altra roba e 80 euro l'altra, alla fine non se ne rende neanche conto e si trova con indebitamenti che non riesce a sostenere. Dopodiché il passaggio è quello di andare a cercare i soldi, le banche la prima battuta a volte te li danno, poi dopo quando sei in difficoltà non te li danno più e il passaggio successivo è l'usurario. Milano è la capitale dell'usura in Italia, E il processo di indebitamento, tu non vieni fuori nella misura in cui non si riesce a far passare una cultura diversa, che è quella che stavo dicendo anche oggi, stasera. Noi siamo sommersi da tante cose inutili. Io per primo me ne rendo conto, che potremmo benissimo fare a meno. Queste cose a volte per averle esigono un indebitamento. Per evitare questa cosa occorre che le persone si rendano conto che di alcune cose posso appunto aver bisogno e di altre farne a meno. Sull'Islanda non conosco e non so rispondere a questa cosa non conoscendo questa questione. Direi delle cose che non so. Altre domande? In quest'ultimo 5 minuti ha fatto però una cosa che reputo un errore, cioè paragonare il debito privato al debito pubblico. Allora, subentra insomma la politica e gli stati. Allora, parliamo della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana ha un debito pubblico abnorme perché per esempio ha il vizietto di finanziare la TAV in Val di Susa o i bombardieri F-35. per cui non ci deve essere coscia nulla, che equivalgono, che so, al piccolo borghese che vede la televisione e dice mi faccio un debito di rateizzato pur di fare le vacanze alle Seychelles. Cioè la Repubblica Italiana ragiona così, i bombardieri sono le Seychelles della Repubblica Italiana. Che camperebbe lo stesso senza F-35 e men che meno senza TAV, del tutto inutile. E poi il debito a cosa è indirizzato? Cioè, allora, il TAV, per esempio, treno ad alta velocità, ci viene detto, servirà ad esportare i volumi immensi di merce che partiranno dal Portogallo all'Ucraina. Ora mi risulta che le ucraine vengono qui a decine di migliaia a fare le badanti in Italia e Germania, perché c'è una crisi immensa. Il Portogallo è escluso dall'economia mondiale, al massimo il Portogallo potrà esportare i pacchi, i buoni del tesoro come carta straccia, dal Portogallo all'Italia altrettanti buoni del tesoro carta straccia ed esportarli in Ucraina. Ma economia reale da esportare su tutti i benedetti treni non piantiamola lì, e invece metà debito pubblico va lì, e poi Trenitalia non ha i quattrini per i pendolari di Lomazzo e Casalino Albiano, per esempio, o non ha i quattrini per l'agenzia di trasporto dei battelli dell'Agricomo, che vuoi Regione Lombardia, vuoi governo Monti o Mari, tagliano tutti. Allora quello non è un debito capriccioso. Cioè, il fatto di avere debito in funzione dei battelli dei pendolari del lago di Como è un debito, come si può dire, saggio. Fare debito per finanziare l'asilo di Calorato è saggio, non è un capriccio. Sì, sono d'accordo su questo. Infatti io ho fatto questa distinzione tra ciò che serve e ciò che non serve. No, no, questo è... Partivo da un dato soggettivo perché mi sembra più una cosa fattibile anche per noi. La dimensione evidentemente politica è roba nostra e sicuramente ci sono altri canali. E chiamavo più all'aspetto più soggettivo in questa risposta, sicuramente. Ma perché credo che è determinata dalla cultura, è per questo. Abbiamo finito o siamo ci vediamo il 10 febbraio che abbiamo invitato Francuccio Gesualdi, allievo di Don Milani, per parlare della libera informazione o dell'informazione più o meno libera. Ringraziamo Fabio Silva e arrivederci alla prossima.